Mix 24 di Giovanni Minoli. Vorrei ricordare che il Sinodo non è un Parlamento. Ricordo San Giovanni Paolo II quando diceva: l'errore e il male devono essere sempre condannati e combattuti, ma l'uomo che cade o che sbaglia deve essere compreso e amato. E la Chiesa deve cercarlo, accoglierlo, perché una Chiesa con le porte chiuse tradisce se stessa. Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano. Il Papa ha detto, l'abbiamo sentito, il Sinodo non è un Parlamento. Ma perché ha avuto bisogno di fare questa precisazione? Ma soprattutto per la rappresentazione mediatica. Per la rappresentazione mediatica, che include molte realtà naturalmente, anche indotte da dentro se vogliamo. Però C'è stata in qualche modo una mediatizzazione sbagliata per l'avvio di questo Sinodo, no? Ma come sempre succede, ricordiamo il Concilio, ricordiamo quello che Ratzinger, che è stato uno dei protagonisti tra le quinte del Vaticano II, ha detto nel suo ultimo lunghissimo intervento a braccio prima della rinuncia, cioè che è esistito un Concilio reale e un Concilio dei media mediatico, infatti, media, sì, esatto. Ecco, questo è sempre successo nella storia della Chiesa, quindi non c'è, è normale, niente di strano, certo. I documenti preparatori del Sinodo prendono atto della realtà della famiglia in tutta la sua complessità, nelle sue luci, nelle sue ombre. Ecco, sentiamo il Papa che cosa ha detto a proposito di luci e ombre, a proposito dei gay. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Ecco, per essere chiari, quindi il matrimonio resta indissolubile, però i gay? È un'altra questione, è una questione che riguarda persone, che riguarda nel caso della dimensione, chiamiamola matrimoniale, la sua organizzazione civile. E su questo la Chiesa non ha nulla da dire, non entra nella sfera civile. Nella sfera civile, ecco, certamente non entra. Gli ultimi papi si sono ben guardati, sono tenuti lontani dalla... Ma questa visione di Bergoglio però è un'apertura, obiettivamente. Direi che è tradizionale, è tradizionale, perché la frase che abbiamo ascoltato tutti, la distinzione tra l'errore e l'errante, lui l'ha citata da Giovanni Paolo II, ma è una frase classica di Giovanni XXIII e viene dalla più antica tradizione cristiana. Quindi lei dice niente di nuovo. Niente di nuovo. Questo Papa no, perché è stata accolta come una cosa molto nuova, invece. C'è una forzatura, quindi, secondo lei? Non direi perché obiettivamente l'immagine della Chiesa negli ultimi tempi si era un po' stereotipata su... diciamo, ha fatto un aggiornamento, ecco. Sullo stereotipo della durezza. La durezza invece che l'accoglienza, La sta sgretolando. Ecco, quando direttore, cita... sì, no, scusi. No, dico, quando cita le parabole evangeliche, che anche in un'epoca così secolarizzata tutti più o meno ricordano, è molto efficace il pastore che esce a cercare la pecorella, poi le proporzioni, ce n'erano dentro 99, una che girava per il deserto, qui forse è rovescio, qui siamo a rovescio, ecco. La parola poi, testimonianza, qui diventa un po' minoranza, no? Quello che c'è scritto. Le minoranze creative di Benedetto XVI, certo, no? Il sale della terra. Ma certamente c'è una novità, una novità forte sulla quale il Papa sta portando tutta la Chiesa, perché questa è il suo quello compito, che sta succedendo adesso in questo sinodo. Ecco, direttore Vian, anche sul tema della comunione dei separati, il Papa ha fatto un'apertura. Sentiamo il Papa. È necessaria una fraterna e eterna accoglienza nell'amore e nella verità verso i battezzati che hanno stabilito una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale. In effetti, queste persone non sono affatto scomunicate. Ecco, dice qualcosa di importante qua il Papa, no? Cioè, non sono separate dalla comunione della Chiesa. Poi, questo non significa che automaticamente possano essere ammesse alla Eucaristia. E il Sinodo dirà qualcosa su questo, secondo lei, direttore? È difficile prevederlo. Certamente, certo. Il Papa, che è intervenuto personalmente nella seconda giornata di lavori, ha raccomandato, forse la raccomandazione rivolta più all'interno che all'esterno, di non ridurre il sinodo a questo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Adesso entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Dunque, la nostra domanda di oggi è semplice: per la Chiesa la famiglia è la mamma, il papà, i figli, o può essere anche altro? Voglio dire alla mia Chiesa che rifiuto e denuncio la esasperata, spesso paranoica, omofobia dei nostri ambienti. Devo dire alla mia Chiesa che non possiamo più odiare minoranze sessuali, perché così odiamo l'umanità, odiamo una parte dell'umanità. E lo dico come sacerdote cattolico innamorato di un uomo. Questo coming out io dedico alla persona che amo, al mio Eduardo. Ecco, questa dichiarazione, che ha fatto il giro naturalmente dei media di tutto il mondo, inciderà sul sinodo? È una prima domanda che può venire. Ma tu, Pietrangelo, intanto hai scritto sul Mattino un editoriale proprio a proposito di questo coming out, di questa dichiarazione. Che cosa, per dire cosa? Per dire che il prete e il marito del prete sono i due epifani di una potente epifania, perché è chiaro che questo sacerdote parli più per conto del disincanto che dell'eterno, ed è proprio figlio dei giorni nostri più che della Chiesa millenaria. Quindi il Monsignore, ma non troppo, incarna i tic e il linguaggio di una società, quella liberale, dove la separatezza tra lo spazio del sacro e quella della laicità ha raggiunto il suo apice, cioè la libertà di equiparare tutto, quindi perfino papà e mamma, che diventano genitore uno e genitore due, si mangia il diritto di far sopravvivere la differenza, cioè la differenza di ruolo tra il padre e la differenza di ruolo della madre, e tutto ciò nell'orizzonte dell'Occidente, dove tutto ciò che è libero si capovolge nel totalitarismo. Ecco, Mario, per te, sì, questa dichiarazione, o comunque sul sinodo inciderà? Ma a dispetto di quel che si pensa, in realtà, e poi lo si vede nei fatti alla fine, Bergoglio è un riformista molto più cauto, appunto, di quel che si immagini. Il dibattito prima del sinodo, insomma, anche Vian lo ha un po' spiegato con te, no? Sì. È stato duro, almeno in apparenza, forse sono commessi anche come al solito, si è andati molto avanti, diciamo. C'è una radicale che vuole cambiamenti subito, altri sono molto più prudenti, ci sono i tradizionalisti e naturalmente poi c'è il Papa, che io vorrei sommessamente ricordare, alla fine è dentro la Chiesa un monarca dotato di infallibilità, per cui il suo ruolo, insomma, non è proprio quello dell'arbitro e basta. No, certo, infallibilità quando parla ex cattedra. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, per i vostri SMS. Ecco, Pietrangelo, tu sei una persona religiosa, pensi che la Chiesa abbia davanti una sfida insormontabile? Intanto mi aiuto con una bellissima canzone di Franco Battiato, Scalo a Grado. Si illumina d'immenso, mostrando un po' con la lingua al prete che dall'ostia. Tu mi chiedi, Giovanni, se c'è una sfida insormontabile. Ovviamente la Chiesa ha a che fare con l'Eterno, non con la contingenza dei giorni che passano, delle ore, dei minuti, dell'istante, con qualcosa che poi ci riporta all'originario, e cioè quando all'uomo è stato dato questo riscatto rispetto alla propria condizione, e quindi arrivare all'Eterno. La differenza fra Occidente e Oriente, c'è una differenza molto forte, e io voglio utilizzare come parametro proprio la cristianità, ricordare che quando cade, crolla l'Unione Sovietica, all'indomani tutti i russi sono in chiesa con la candela accesa, e quando crolla il comunismo nella DDR, cioè nella Repubblica Democratica Tedesca, quegli stessi si ritrovano invece in fila davanti al porno shop. Ciò significa che l'Oriente ha mantenuto fedeltà ad uno spirito, a un'identità di spirito, mentre invece l'Occidente, nel suo etimo, terra della sera, non ha fatto altro che abbracciare la secolarizzazione, e quindi l'idea che quest'epoca sia soltanto un'epoca che pertiene all'uomo e non a Dio. Ecco, Roberto ci scrive: io sono gay, ma qua non c'entra nulla con questa coming out. Il celibato conta, se no se ne vada, semplifica il discorso, ma certamente è anche questo un punto di vista. Se la teologia comunque è un campo delicato, naturalmente Bergoglio si sta muovendo con forza e con rapidità anche e molto sulla politica estera. La sua evangelizzazione procede anche in questo modo, anche con la politica estera in Siria, lo ricorderemo 2 anni fa, poi l'apertura a Cuba, i viaggi in America. E Mario, il Papa ha un fattore, è un fattore di cambiamento anche nella politica estera, secondo te? Sì, non solo Bergoglio, ovviamente tutti i papi hanno avuto più, chi più chi meno, una grande influenza sulla politica estera. Ricordo a tutti la famosa frase di Stalin: quante armate ha il Papa, no? Poi sappiamo come è andata a finire, l'impero comunista è crollato, la Chiesa è ancora là, insomma ci sono 2000 anni di storia, non è un caso. Il Papa è il capo di una comunità transnazionale che è di 1.254.000.000 di persone ad oggi, dunque è una potenza, ed è questo per me almeno l'aspetto più interessante della questione. Ecco, a Paolo noi rispondiamo: cosa serve dare il numero di telefono se gli sms non li considerate? Come vedi, lo consideriamo ma se ci dici anche qualcosa che vuoi sapere è ancora meglio. Delle sfide di Bergoglio, dell'uomo della diplomazia, parliamo con Massimo Franco, con commentatore del Corriere della Sera, autore del libro Il Vaticano secondo Francesco, che è edito da Mondadori, ma nell'altro libro, quello Imperi Paralleli, in edicola adesso con il Corriere della Sera, tu tracci un quadro delle sfide del Papa venuto dalla fine del mondo. Ecco, questo sinodo sarà una tappa di questa rivoluzione? Beh sì, sarà una tappa e anche piuttosto seria, perché il Papa viene da un viaggio... Perché il Papa viene da un viaggio negli Stati Uniti in cui si è rafforzato obiettivamente, però le ultime polemiche sui gay, sull'omosessualità, in qualche modo rischiano di oscurare questo rafforzamento. Ecco, ma qual è la differenza maggiore tra questo Papa e il precedente? Ma che questo Papa nasce dal trauma delle dimissioni del precedente, quindi è lui stesso un trauma. Secondo, viene dall'America Latina, cosa che non era mai successa. Terzo, viene da una megalopoli. Non ci sono mai stati papi che venivano da grandi città, al massimo da Roma. Ecco, nel viaggio a Cuba e negli Stati Uniti che citavi, Francesco si è rivelato non solo il capo della Chiesa Cattolica, ma il capo del Sud America. Che cosa è più importante per Bergoglio? Ma senz'altro è più importante essere capo della Chiesa Cattolica, ma questo è inscindibile dalla sua identità latinoamericana, perché lui ha voluto arrivare negli Stati Uniti passando da un paese del Sud America, in questo caso paese caraibico, ma comunque Sud America. Ma arrivare al sinodo con il successo di quel viaggio lo aiuta? Lo aiuta molto, perché l'episcopato americano, quello statunitense anzi per essere precisi, è sempre stato un suo grande elettore al conclave, sì, però anche molto conservatore sui cosiddetti valori non negoziabili. Avere avuto con questo episcopato un rapporto tranquillo durante questo viaggio, secondo me, lo ha rafforzato. Ecco, ma cos'è più importante, il successo di questo viaggio o il sinodo? Secondo me è più importante il sinodo, soprattutto perché oggi la sfida di Francesco si gioca non solo e non tanto nel rapporto con le folle, ma all'interno della Chiesa cattolica. Ma c'è un rapporto quindi fra queste due cose? Una è all'esterno, il viaggio, e l'altro all'interno, il sinodo? Sì, c'è un rapporto che non è sempre così automatico e fluido, perché in realtà, per paradosso, oggi il Papa ha più problemi dentro la Chiesa, nel personale ecclesiastico, che non presso le folle. Ecco, ma Bergoglio ha più nemici politici o dottrinari? Ma secondo me è una bella miscela, è una bella miscela, perché in realtà sul piano dottrinale questo Papa ha soprattutto cambiato i toni, ma non la dottrina. Però questo non basta a evitare un certo disorientamento e una certa perplessità da parte dei settori più conservatori. Ecco, ma Massimo Franco, chi sono i suoi nemici al Sinodo, se si può usare questa categoria? Ma sì, se vogliamo usare questa categoria, forzandola un po', secondo me sono sia la componente che vorrebbe una vera apertura dottrinaria, sia quelli che in realtà vorrebbero ingessare la Chiesa in posizioni in qualche modo eterne. Quindi sono le ali estreme che lo strattonano da una parte e dall'altra. Non a caso ci sono stati due libri, uno di cardinali conservatori e poi adesso c'è questo libro di questo monsignore omosessuale. Quindi certo. E questo libro giocherà una partita, secondo te? Ma ho l'impressione cerchino di rimuoverlo molto, anche perché è stato fatto in modo molto provocatorio e quindi debole. Beh, giocato proprio come un fatto mediatico puro. Beh sì, perché uno che annuncia questa sua omosessualità, annunciando però pure che sta per uscire il suo libro, molto spontaneo non è, ecco, diciamo così. Ecco, ma secondo te Bergoglio, durante questo sinodo, avrà l'appoggio di Ratzinger? Io penso di sì, anche se l'appoggio sarà sempre molto implicito, perché Ratzinger non credo che farà nessun tipo di intervento pubblico. Ma Francesco non rischia di piacere agli atei senza convertirli e di spiacere ai credenti fino a allontanarli dalla Chiesa? È un rischio che corre oppure no? Secondo me è un rischio che corre, sì, soprattutto in alcuni ambienti più conservatori. Senti, un'ultima cosa. Dimmi un punto di forza e uno di debolezza in questo momento all'apertura del sinodo di Bergoglio. Ma il punto di forza è un Papa che ha una grande legittimazione internazionale e questo lo aiuta, ed anche un grande consenso popolare. Il punto debole è un Papa che tende a privilegiare il rapporto con le grandi masse che lo applaudono e che invece non sempre mostra di avere capacità di governo rispetto alla Chiesa cattolica intesa come istituzione. Sacerdoti, esattamente. Ecco, Pietrangelo, 9, 21 e 32 secondi. Pietrangelo, sullo sfondo c'è sempre in qualche modo dietro l'angolo la sfida con l'Islam, l'altra grande religione monoteista. Ma c'è solo guerra, tanto odio, oppure c'è anche una possibilità di pace su questo sfondo? Ci vuole sapienza, conoscenza e saggezza. Lo dico con le parole di Franco Cardini: se solo i cristiani conoscessero a fondo il cristianesimo non potrebbero chiamare l'Islam, e viceversa, se solo i musulmani conoscessero a fondo l'Islam non potrebbero chiamare la cristianità. Quindi l'ignoranza è il problema. L'ignoranza è il problema, perché quando i musulmani erano perseguitati, lo stesso profeta disse loro di andare dal re cristiano d'Etiopia, che li avrebbe protetti perché li avrebbe riconosciuti come fratelli. E allo stesso modo l'Islam, nella saggezza, deve aprire la strada soltanto ai sapienti e non certamente ai fanatici. Ecco Mario, è un sinodo dove però non regna la concordia, no. Almeno così sembra, visto, fotografato da fuori. Abbiamo sentito poi anche il Concilio Vaticano, una cosa è stata e l'altra è quello raccontato. Ecco, cosa ti ha colpito da questo punto di vista? Ma delle cose che ho visto in questi giorni, diciamo, c'è un documento molto duro di tre teologi considerati eminenti, Barthe, Livi e Morselli, che criticano i lineamenti e gli instrumentum laboris, che sono poi i documenti che arrivano al sinodo e riguardano la comunione divorziati e risposati, la comunione spirituale, l'omosessualità. La conclusione è molto secca, cioè che sono tutte parti che compromettono la verità messa con la V maiuscola. Quindi c'è un dibattito e le cose che diceva Franco adesso sono assai pertinenti. Ecco, per parlare di questi punti controversi, Roberto De Mattei, professore di storia del cristianesimo, ha scritto diversi libri sulla Chiesa Cattolica, ma è anche autore di una controstoria del Concilio. Ecco, professor De Mattei, cosa non la convince della rivoluzione di Bergoglio? Non mi convince innanzitutto una certa mancanza di chiarezza. Mi sembra un pontificato estremamente ambiguo, perché crea delle aspettative negli ambienti progressisti, crea delle resistenze negli ambienti di conservatori, ma non si capisce qual è la linea. In questo senso io mi auguro che questo sinodo dei vescovi in corso faccia chiarezza in qualche modo, opera una parola chiarificatrice. È quello che è stato chiesto del resto da 800.000 cattolici che hanno presentato una supplica filiale al Papa, proprio per chiedere una parola chiarificatrice. Ecco, ma dove comincia, dove finisce il potere del Papa sulla dottrina, cioè sull'insegnamento teologico? Il Papa ha la pienezza della potestà, ma il suo potere non è assoluto, vale a dire che vi sono alcune cose per le quali il Papa ha meno potere di un Parlamento democratico. Un Parlamento democratico, ad esempio, può introdurre una legge sul divorzio o sull'aborto. Il Papa non può invece cambiare la dottrina su questo punto, è vincolata da quella che è la legge divina, la legge della Chiesa. Ma qual è il rischio che corre Papa Francesco in questo percorso di rinnovamento? Lei dice un po' questa ambiguità, in un certo senso. È un'ambiguità, e poi l'idea che si possa dissociare, che si possa separare quella che è la dottrina della Chiesa, cioè la sua legge divina, la sua legge morale, dalla prassi. In questo senso il Papa ad esempio ha affermato, aprendo il sinodo, che il matrimonio è indissolubile, che non si tocca l'indissolubilità del matrimonio. Benissimo, in teoria, ma in pratica, perché l'indissolubilità non è un ideale impraticabile. E se da una parte si afferma questo e dall'altra parte ad esempio con il recente motu proprio sulla riforma del matrimonio si introduce di fatto, come è stato detto da qualcuno, una sorta di divorzio cattolico, perlomeno si apre la strada. Insomma, è semplicemente un incarnarsi nella realtà della vita contemporanea, cioè diciamo la Chiesa si è sempre poi anche adattata nella sua nella sua predicazione, nella sua, come dire, nella realizzazione dei suoi ideali. Questo mi sembra il punto di fondo, il rapporto fra la Chiesa e il mondo. Nel corso della sua storia questo rapporto è stato spesso conflittuale, c'è stata spesso una differenza fra la dottrina della Chiesa e la realtà concreta del mondo. Il problema è quello di sapere se è la Chiesa che deve adattarsi a quelle che sono le leggi, o se vogliamo talvolta alle mode del mondo, o se è il mondo che deve essere invece convertito. Però non deve neanche essere immobile, no? No, la Chiesa non deve essere immobile, ma il vero progresso è quello che si fa in nome della tradizione, cioè un rinnovamento che non cambia l'essenza del messaggio. Ecco, lei sembra... cosa ne pensa del viaggio del Papa a Cuba? Non lo vedo positivamente. Perché? Perché al di là, diciamo, di ciò che il Papa ha detto, ci sono alcuni messaggi che sono passati, quali ad esempio l'incontro con Fidel Castro, che comunque resta uno dei più feroci dittatori comunisti della storia, perché non è un post-comunista, è un comunista, diciamo, non pentito. Non è emersa nessuna riserva da parte del Papa nei confronti del passato di Fidel Castro. E dall'altra parte, mentre il Papa incontra amabilmente Fidel Castro, ignora la protesta tuttora in corso dei dissidenti cubani, e impersonati ad esempio da una figura come Valladares, e questo, diciamo, è un messaggio anche mediatico, anche politico se vogliamo, che va al di là di quello che poi... Quindi lei è molto critico insomma con questo viaggio, sì. Io sono critico. Ecco, ma in definitiva da questo sinodo cosa si aspetta? Una chiarezza su quale punto? Io mi auguro che sul punto centrale del matrimonio e della famiglia sia riaffermata la dottrina tradizionale, perché altrimenti Il rischio per la Chiesa è molto forte, cioè il pericolo di uno scisma, perché in questo momento purtroppo all'interno della Chiesa cattolica convivono modi di vivere la religione diversi. Quindi lei vede il pericolo di uno scisma? Io vedo il pericolo di uno scisma, non certo perché lo desideri, ma perché si tratta di qualche cosa di possibile purtroppo. Per evitarlo è necessaria da parte del Sinodo una grande chiarezza. Ecco, io mi auguro che il Papa dica una parola in questo senso. Ecco, Franco Barbanera ci dice: quando parlando di famiglia si parla di divorzio, omosessuali e gender, non si parla di asili che non ci sono, di tempo pieno alla scuola, di servizi ai disabili, vuol dire che di famiglia a questi non interessa nulla. Beh, questo è un altro discorso, si parla anche di questo, però sì. L'osservazione, beh, nei documenti del sinodo c'è grande roba, appunto, su questo. Un'ultimissima battuta, Mario: pensi che questo Papa la riformerà la Chiesa? Naturalmente ritorneremo nel tempo del sinodo. Sì, ma non come pensano gli atei devoti, se mi passi la battuta. Bene, è un tema comunque, è un tema grande, e il sinodo prosegue in questi giorni, lo affronteremo ancora con Dentro la Notizia, ma intanto, per chiudere questa prima parte, una testimonianza di un giornalista laico, un grande giornalista laico colpito da Papa Francesco sino a questo punto. Lo sentiamo? Io sono un miscredente, il Papa lo sa benissimo, anzi vuole vedermi di tanto in tanto perché dice che io sono un miscredente che lo stimola. Eugenio Scalfari ha dato l'8 per 1000 alla Chiesa? Sì, è la prima volta, perché questa Chiesa è più laica dello Stato. Beh, interessante questo punto per la tradizione. Ci torneremo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Antonia da Roma, buongiorno. Buongiorno, voglio scusare la mia voce raffreddatissima. Dica pure. Purché si comprenda. Allora, io sono un'anziana divorziata, risposata. Tantissimi anni fa, io ero una giovanissima separata, senza colpa, io ho chiesto di riconoscere la nullità, non c'era il divorzio, del mio matrimonio. Mi sono vergognata di quello che i sacerdoti rosali mi chiedevano e ho aspettato fiduciosa, forse, e poi è finalmente arrivato il divorzio. Mi sono divorziata, libera dentro, mi sono risposata, non chiedo i sacramenti, non mi mancano poi tanto, mi sento in pace con me stessa, però vedo che c'è una, mi pare, una duplicità nel comportamento della Chiesa. Le aperture a parola sono moltissime, di fatto non cambia nulla, perché i divorziati risposati non possono accedere e questo non importa, non mi manca, però vedo che moltissime persone, ma la gran parte delle coppie o convivono, e quindi per la Chiesa sarebbe lo stesso, perché comunque sono in peccato. Sì, e allora le vede che fanno ricevono i sacramenti, e credo che il sacerdote lo sappia, perché credo visita le case. Grazie. Visita le case per la visita pre-pasquale. Certo, grazie signora. Credo che questo sia un problema che i parroci, i preti, che sono a contatto con la realtà quotidiana, poi affrontano spesso ognuno secondo un proprio criterio, pur dentro una linea. Penso che sia un po' così. Bruna da Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno. Buongiorno, io ho 70 anni, sono vecchia, e io credo che questo Papa Bergoglio mi stia facendo una confusione. Perché? In testa con quello che sono. Ma perché lui è tutto buono e tutto si può fare? Ma nostro Signore Gesù non era così. Nostro Signore Gesù era giusto, quando c'era da castigare andava castigato, però quando c'era da accogliere accoglieva. Certo, questo è il problema. Questo invece lui è tutto buono e facciamo questo, ma non è questo quello che ho letto nel Vangelo. Insomma, quello che ho letto nella lei vuole, lo vuole cattivo? No, io non lo voglio cattivo, io lo voglio giusto. E lui pensa di essere giusto. Grazie signora. Pietrangelo, la tua canzone. Ecco. Tides that I tried to swim again. testa, cercava qualcuno che gliela sparasse via. E poi Colamela aveva anche un inguacchio, un problema che non si poteva nominare. Un po' più avanti, nella camminata che ho fatto da casa per arrivare qui in redazione, ho visto un signore con una tigre al guinzaglio, una tigre furiosa che era in attesa di essere addomesticata. E la tigre mi ha parlato. Ha detto di essere Eleonora Duse. E questa canzone, Glox, mi ha detto di metterla apposta oggi per dedicarla a Gabriele D'Annunzio e a tutte le fiaccole che stanno sotto il moggio. Mario, tu c'hai nella tua pentola la bolla cattiva del giorno? Sì. Oggi faccio impallidire e butta a fuoco, deciso. Basta. Dai. E sarà Rocky, cosa vuoi che ti dico? Insomma, quando il Premier disse che noi avremmo fatto meglio della Germania, aveva ragione. Ma ti ricordi che fu tutto un alzarsi di gomito, un levarsi di risolini, tutto un sopraccigliare da grandi altezze? I gufi. Era pieno di gufi. Ora, i titoli di prima pagina di stamattina: l'Italia cresce e può fare meglio della Germania. Detto, chi l'ha detto? L'Ocse? No, no, il Fondo Monetario Internazionale. E prima l'aveva detto Renzi e tutti ridevano. E quindi fa un certo effetto oggi vedere questa cosa e sentire, no, l'economista del Fondo Monetario che dice: l'Italia può crescere più della Germania nei prossimi 2 anni. A me pare degno di attenzione, forse anche solo per confutarlo. Voglio dire, lui, Renzi, ha detto: l'Italia è tornata ma solo l'inizio. Non ha, questa è la vera sorpresa, citato i gufi, caro Buttafuoco, che io però ti farò sentire. Però non hanno vinto i gufi. Però posso dire che il Fondo Monetario Internazionale dica di Renzi che supererà la Germania è come il conigliaro che dice: quanto è bello sto coniglio. Invece è molto bello quello che dice Elena, che ci dice: vorrei vedere la dichiarazione di Scalfari per verificare bene, perché sarebbe il primo miracolo di Bergoglio, il suo 8 per 1000. Beh, ha ragione, l'ha detto anche Scalfi, è la prima volta. Non male. Allora, 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS, il salamino. Fatture, scontrini, pizzini, cartuzze, cartuccelle, certificazioni. In principio furono i 5 stelle. Noi rendicontiamo scontrino per scontrino, in quanto quel denaro non è nostro, quella è la nostra... Scontrino per scontrino, scontrino su scontrino e poi, sempre nel solco degli scontrini, caro Giovanni, ci fu lei... Lo 02 di suo, ve la ricordate? Eccola! Portato questo scontrino, è una spesa di 80 euro. Fettine scelte, macinato, bocconcini, insalata al lattughino, il saccottino fragola, i tortellini addirittura, un vasetto di Nutella, un... E vabbè, delle marche di... Ecco Pina Picerno con il suo scontrino da 80 euro che... presentò da Floris e poi ovviamente sommersa dagli sghignazzi di tutti. Infine chi c'è? Lui! Riparto Pegliuca, me so imbucato, il Papa smentisce, non sei stato invitato, la bucia chissà di chi è. La bugia chissà di chi è, meno male che Ignazio c'è lui. Insomma, sto povero sindaco che è lui, com'è? È come Cimabue, ve lo ricordate? Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due. Allora, candido come un ingenuo, ingenuo come un candido, Marino si ritrova con la procura di Roma che indaga rispetto a quello che aveva presentato come il capolavoro dei capolavori, la mitica trasparenza. Era andato da Corrado Fermigli a dire tutto ciò. Io poi le farò vedere, gli ho portato in anteprima, visto che se ne è parlato tanto, le spese di rappresentanza, le spese di missione del comune di Roma, e gliele ho portate. Ce le ha portato tutti gli scontrini? Tutti. Della sua carta aziendale. E domani mattina li metto tutti sul sito. Quindi il famoso libro che stava scrivendo in America non era nient'altro che l'antologia di tutti i suoi scontrini. Perché, caro Giovanni, caro Mario, è tutta una cena, magari fosse la cena delle beffe, non l'ultima, magari quella con Clara Calamai che mostra il suo meraviglioso seno, niente, però niente. Lui è venuto, ha portato gli scontrini, solo che è successo un manicomio. C'è stata la rivolta del trattore, non nel senso del mezzo agricolo, della trattoria, dove a un certo punto c'è stato un trattore che ha detto ma no, ma quale, ma era una cosa privata, poi l'ha smentita, no, forse non ricordo, mentre invece la Repubblica stamattina squaderna oggi l'intervista al titolare di un ristorante romano, un ristorante di quelli chic, come si chiama, Mario? Non me lo ricordo. Vabbè, non importa, non facciamo no, una è il titolare della taverna di Piazza Margana, Margana. Allora, dove dice che era una cena di rappresentanza. Quello dice, ma quale cena di rappresentanza? Era con la moglie. Allora, il problema qual è? Che venne pagato, pare, con la carta di credito, però... Eppure il vino si ricorda. Sì, un vino. Io non lo citiamo. Però. Beviamo tutti. No, vabbè, il vino. Però, un vino da 5 euro, un bicchiere 5 euro, l'altro bicchiere 5 euro, no, 55 euro. Allora, vabbè, giusto, bisogna che beva bene, si sente meglio. È meglio bere bene che bere male. E poi, e poi lui è stato smentito, Giovanni, noi che abbiamo fatto il dentro la notizia sulle questioni, è vero, del sino della chiesa, è stato smentito pure dalla potente parrocchia di Trastevere. Ha smentito il sindaco, dice nessuna cena con lui. Conclusione che il sindaco si appella alla fattura. Mi servirebbe una fattura lunedì. Ma tu lo sai, Giovanni, dai, lui si appella alla fattura. Siamo fuori tempo massimo. No, ma l'unica fattura che gli portano, sai qual è? A bambolina a quei spinguli. Mario, c'è ancora una bolla. Al volo, bambino. Al volo. Vai. Allora, amiamoci un po' tutti se possiamo. Il Times di Londra stamattina pubblica una notizia che deve trovare ancora una conferma ufficiale, ma lo vedremo domani, e cioè che c'è un piano per espellere 400.000 non profughi, cioè persone che hanno chiesto asilo ma non ne hanno diritto. Il tema è molto importante perché si fa chiarezza su una cosa che aveva chiesto la Germania, cioè fare una differenza molto forte tra i profughi che scappano dalla guerra e i migranti economici che non hanno diritto. Quindi domani probabilmente avremo un'altra notizia molto importante da commentare, vediamo. E intanto 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Centinaia di persone per dare l'ultimo saluto ad Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa da Mosca e nota per essere sempre stata fortemente critica nei confronti del Cremlino e per le sue inchieste sulla guerra in Cecenia. Era considerata da molti l'erede naturale di Anna Politkovskaya. Anche lei scriveva per la Novaya Gazeta, scriveva per denunciare gli abusi di potere, i diritti cancellati, i soprusi russi in Cecenia. Anastasia Borburova, 25 anni, è morta dopo alcune ore di agonia, uccisa dallo stesso sicario dell'uomo che avrebbe voluto intervistare, l'avvocato Stanislav Markelov. Quando qualcuno aveva bisogno di un legale senza paura, chiamava lui. Amedeo Ricucci, giornalista e autore del documentario sulla Politkovskaya. A quasi 10 anni da quell'esecuzione, sappiamo qualcosa di più di Anna? No, di Anna si sa praticamente tutto, nel senso che Anna, poi da brava giornalista, scriveva i suoi libri, secondo me sono una testimonianza agghiacciante di cosa vuol dire fare il giornalista in Russia. nell'epoca di Putin. Non si sa nulla, ma non si sa soprattutto, a 10 anni di distanza, sono 8, non si sa chi è il mandante dell'omicidio. Ci sono stati svariati processi. Nel 2012 è stato condannato in via definitiva un poliziotto che aveva organizzato il pedinamento di Anna. Nel 2014 i 5 esecutori materiali, fra cui il killer, un ceceno peraltro di nome Mahmudov, sono stati condannati, ma resta. Ma la verità è ancora lontana, insomma, sul mandante. Verità lontanissima, anche se emerge dall'ultimo processo che gli scritti di Anna davano fastidio a qualcuno in Cecenia, che è poi l'ipotesi che abbiamo fatto noi e che hanno fatto in tanti all'epoca. Ecco, il giallo della morte di Anna, gli interrogativi sul processo, i testimoni di una vita, qui a Mix 24 dopo il giornale radio. Through the city's melting furnace, unexpectedly we watched. Mix 24. Un sms veloce di Ulisse che dice: il sindaco di Roma sbertucciato in tutto il mondo per un piatto di tagliatelle. Questa è l'Italia. Non mi pare, non se è Ulisse, che sia un piatto di tagliatelle la cosa di cui si discute, ben altro è in tutto il mondo per delle ragioni abbastanza forti. Mario, l'ultima bolla. Sì? È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Bene, e per conversare ci vuole anche una birretta, caro Giovanni. Ce li hai un po' di soldi? Sì. No, perché pochi. Voglio dire, la InBev, che è uno dei giganti del settore, il numero uno nel mondo, è belga, ha appena offerto 92 miliardi di euro per comprarsi la Sub Miller, che è un altro dei giganti del settore. Hai visto la birretta? La birra rende. Dobbiamo fare una colletta con i nostri ascoltatori e cominciare a fare la scalata. Più la birra del vino, no? Com'è? La birra è una cosa micidiale. Grande esplosione. Beh, lo vedremo nella prossima puntata sullo sviluppo in Italia. E intanto, per chiudere, abbiamo il professor Roberto Bernabei, col quale commentiamo come sempre le notizie della ricerca medica apparse sulle riviste top di tutto il mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ, 3 agosto 2015. Consumo di cibi piccanti e mortalità, uno studio di popolazione. Allora, professore, mortalità e cibi piccanti. Ma il BMJ, che è l'autorevole rivista inglese, fa uno studio che è uno studio leggero, nel senso che non ci sono notizie devastanti su un cancro o una malattia grave, però c'è una roba che colora la vita, come si dice. Perché gli autori inglesi hanno studiato 500.000 cinesi per 7 anni. Come sapete, i cinesi mangiano spicy, dicono gli americani, mangiano piccante. Noi però ci difendiamo, come sappiamo, soprattutto in alcune regioni del sud, perché il peperoncino impera. E allora hanno visto se questo mangiare con cibo piccante, peperoncinato, fa e ha qualche effetto sulla nostra salute. Beh, allora sappiate che chi mangia il peperoncino tutti i giorni ha una diminuzione del rischio di morte del 14%. Ora, 14% è più di 1 su 10, una roba sostanziale. E anche se si mangia il peperoncino una o due volte alla settimana, è sempre meglio di non mangiarlo per nulla. Questo è un dato ormai oggettivo, perché è pubblicato dal BMJ. Beh, vediamo di capire perché. Perché dentro il peperoncino c'è una roba che si chiama capsaicina. La capsaicina intanto diminuisce l'appetito, ed è esperienza comune di tutti quelli che mangiano peperoncinato, ed è colpa della capsaicina. Quindi diminuisce il rischio di obesità e pare che abbia anche un'azione antibatterica. Protegge contro il diabete, contro le malattie cardiovascolari e contro il cancro. Migliora l'infiammazione, diminuisce la pressione arteriosa e lo stress ossidativo. Quindi, praticamente l'acqua di Lourdes. Fa quasi tutto questa roba. E data sia con peperoncino fresco, sia tritato e secco, sia dentro l'olio, non c'è differenza. Ognuno il suo. Quindi peperoncino per tutti. Peperoncino per tutti.